Effetto Mondo. We have to get back to work. Our people want to work. They want to go back. They have to go back. And we're going to be talking about dates. Cara Giulia Crivelli, ci porti ogni giorno il nostro Trump quotidiano. Sì, ciao, anche Giulia. Perché ciao Alessio, anche perché insomma ogni giorno di più gli Stati Uniti sono diventati, lo sappiamo, hanno battuto ogni record, quindi non fosse che per quello sono il vero epicentro in questo momento, e quindi giusto dare spazio. Fa impressione vedere nel sito quello della John Hopkins, vedere gli Stati Uniti che hanno superato la Cina e l'Italia. Sì, tra l'altro con questo proprio boom, cioè ci sono tutti i grafici a barre, poi c'è questa barra che schizza verso l'alto e come dici tu fa impressione. Questo era Trump che ieri ha illustrato le misure del pacchetto di stimolo approvato dal Senato, come riportano tutti i giornali, ha detto che adesso, ma non c'è motivo di credere che non succederà, che verrà approvato molto velocemente anche dalla Camera dei Rappresentanti, che sappiamo è a controllo democratico, ma il voto è stato... non c'è stato nessun contrario al Senato, quindi anche tutti i democratici hanno votato a favore. Ha voluto comunque dare una stoccatina a Nancy Pelosi dicendo forse ci sarà un voto, indovinate di chi potrebbe essere, tutti a ridere. Però insomma ha parlato nel dettaglio di questo pacchetto di stimoli e poi ha anche detto, perché probabilmente qualcuno sembra un po' il gioco del poliziotto buono e poliziotto cattivo, Trump dice riapriamo tutto per Pasqua, andiamo tutti a messa per Pasqua, e Fauci, che è il super esperto, a poche ore di distanza dice calma, e quindi Trump ha detto vabbè, vedremo, insomma l'America vuole tornare a lavorare, noi siamo fatti per questo, noi siamo fatti per agire, noi siamo fatti per get it done, e quindi le date questa volta non ne ha fatte, però il suo messaggio è comunque quello, insomma noi stiamo lavorando per far riaprire tutto quello che si può aprire il più presto possibile. Non so se hai ancora qualcosa sull'America, perché se no la grande notizia di oggi è Boris Johnson. Sì, che sui giornali non c'era ancora perché è arrivata proprio da pochi minuti, sui siti però naturalmente c'è già. Ieri la notizia dal Regno Unito è stato un po', anche qui forse hanno visto quello che era successo in Italia ed è piaciuta questa idea, tutte le persone a una certa ora sono uscite di casa e hanno applaudito, soprattutto gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Sui quasi tutti i giornali c'è la foto dei tre bambini di William e Kate che applaudono, ma appunto questo applauso è stato fatto da tutti. E le grandi novità però di cui dà conto per esempio con un titolo a caratteri cubitali il Daily Mail è don't move, nel senso, perché move vuol dire sì muoversi ma vuol dire anche traslocare, quindi è stato detto a tutti chi non ha proprio bisogno assoluto, non si fanno traslochi in questo periodo, si sospendono i mutui, si sospendono le contrattazioni immobiliari, quindi il settore si blocca di fatto. E poi ci sono le misure, se vogliamo sentiamo un audio del cancelliere dello scacchiere, che anche qui in questo, se vogliamo, un po' paradosso di un governo molto conservatore, che si è presentato così, ma che ora sta attuando delle misure davvero keynesiane, cioè dove lo Stato aiuterà tutti, e ieri sono state annunciate quelle che mancavano, cioè le misure per i lavoratori autonomi. Sentiamo. Musicians and sound engineers, plumbers and electricians, taxi drivers and driving instructors, hairdressers and childminders and many others, through no fault of their own, risk losing their livelihoods. To you, I say this, you have not been forgotten. E dice? E dice a tutti voi, idraulici, parrucchieri, piccoli impresari edili, tutte queste persone che sono appunto dei lavoratori autonomi, sono quelle che noi qui chiamiamo le partite IVA in generale, non vi preoccupate, non vi abbiamo dimenticati. E poi ha snocciolato con un piano molto preciso, molto dettagliato, quali sono i limiti, comunque lui dice è la misura più generosa attuata, questa competizione è veramente esasperante, che bisogna subito aggiungere che si è fatto meglio di qualche altro paese, però insomma l'ha fatto anche lui, dice nessun altro paese è stato così generoso con gli autonomi, vi daremo l'80% del vostro reddito mensile dichiarato. E poi ci sono dei tetti naturalmente, perché i piccoli imprenditori autonomi sono anche per esempio non so, i grandi capi di studi di architettura o medici, loro ovviamente si suppone che abbiano un po' di fieno in cascina Cina e che quindi non abbiano, ci si rivolge naturalmente alle persone che devono veramente vivere del loro stipendio mensile, che se viene a mancare anche solo una settimana è già un problema. Certo. Un aggiornamento dalla conferenza stampa di Brusaferro, di cui abbiamo parlato poco fa, in cui è stato detto che il picco non è stato raggiunto, anche se ci siamo vicini al momento. Poi dice Brusaferro, non è possibile dare una stima degli asintomatici, di quante siano le persone asintomatiche in Italia, cioè di quanto si è estesa l'infezione, di quanto tanti italiani possano aver fatta questa epidemia senza neanche accorgersene. Poi ancora è un tema, forse questo non so se c'è anche sui giornali internazionali, ha fatto discutere in Italia, Giulia, il discorso del coronavirus nato in laboratorio. Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità ha ripetuto ancora una volta, non c'entra nulla, il virus attuale non è nato in laboratorio. No, guarda, qualche giorno fa la Bild, ma la Bild è come dire veramente, cioè la Bild è un giornale che mette anche donnine, metteva, perché adesso non lo può più fare, metteva donnine nude in copertina, quindi non scendiamo nemmeno in questa, perché veramente lo trovo, appunto, è una polemica tutta italiana che certo, per fortuna nessuno ha raccolto. Invece mi preoccupa personalmente, sì, ma preoccupa evidentemente anche i tedeschi, perché è il titolo di quasi tutti i giornali, queste dichiarazioni del ministro della salute Spahn, che ha detto questa è la Ruhe vor der Sturm, cioè non la calma, non dopo la questa tempesta, la so anch'io, ma la tempesta, prima della tempesta, perché i tedeschi sono ben consapevoli che i loro numeri, così come i nostri, sembrano avere qualcosa di non perfettamente comprensibile anche i loro, cioè ci sono, se vogliamo, troppi pochi contagi, quindi ci si sta preparando, sappiamo che hanno molti più posti in terapia intensiva di noi, però comunque l'allarme, non convincetevi di aver la scampata voi miei concittadini, ha detto Spahn, e da qui anche l'apertura, che naturalmente è molto interessante, del ministro invece Scholz, che forse contrariamente a quanto sarebbe successo anni fa, sui corona bond è molto meno duro dei suoi corrispondenti, come sappiamo, corrispettivi olandesi o austriaci. Interessante sulla FATS, per insomma non si parla proprio solo di coronavirus, visto che tra l'altro lunedì dovrebbero esserci a livello europeo anche i famosi negoziati sulla Brexit, un'altra cosa che si dovrebbe discutere a breve, ridiscutere a livello europeo, è l'embargo di vendita alle armi per paesi come la Siria, tutto un tema passato in secondo piano, e intanto però l'Independent mette in prima pagina una foto di una casa mezza distrutta dalle bombe a Idlib, che viene disinfettata, perché anche lì arriva il coronavirus, è arrivato anche in Siria. Non so se sui giornali tedeschi ci sia qualcosa, a me ha colpito, ho saputo che durante la videoconferenza dell'Eurogruppo Angela Merkel non era presente in vivo, ma c'era una foto sua e una voce, non ho capito addirittura se tradotta, e non era neanche la sua, una voce che si sentiva dietro questa immagine fissa, ma non credo che i giornali se ne siano occupati. In Spagna invece, Giulia, sì, dove la situazione è abbastanza grave, che sì, notizie hai? Sta cercando di avere un ruolo e anche lanciando delle campagne, naturalmente facendo delle donazioni a suo nome, a nome della famiglia reale, il re. E devo dire che è la prima volta, perché non so tu Alessio, ma io non ho ancora visto Trump con la mascherina, non ho ancora visto, no, per vero, esempio, né Conte, né per questo il presidente Mattarella, né Macron, però invece in queste foto pubblicate da El Mundo e El País, il re, che è andato a far visita anche ad alcuni ospedali, munito di mascherina, quindi si vedono soltanto i suoi occhi, e appunto ha cercato, un po' come forse avrebbe fatto la regina se non fosse insomma in una fascia d'età molto a rischio, però insomma di far sentire, visto che il re loro ce l'hanno, di far sentire almeno questa vicinanza in questo momento così difficile. Sarà che non abbiamo ancora capito se le mascherine vanno usate o no, chi deve usarle. Io arriverò in fondo a questa pandemia, non avrò ancora capito questa cosa, ma sto scherzando naturalmente. Cos'altro? Ah, se vuoi un volo veloce in Israele, sì, perché come sapete l'esplosione dell'epidemia in Israele coincide con ha coinciso con il l'incarico a Gantz per formare un governo. Sì. Gantz, praticamente l'eterno ex alleato, ex amico di Benjamin Netanyahu e ora suo nemico politico, praticamente sta gettando la spugna, e quindi per altri 18 mesi quasi sicuramente sarà Netanyahu il primo ministro. Haaretz è molto preoccupato perché dice sostanzialmente un exhausted Gantz non ce la fa più, perché Netanyahu è un abilissimo politico, se vuoi anche con un pizzico di cinismo, sta cercando di fare un po' lo statista in questo momento, anche se, come abbiamo detto ieri, ci sono tantissimi problemi, soprattutto nei confini con la Palestina e nella gestione di un eventuale scoppiare dell'epidemia anche appunto in Palestina. Grazie Giulia, ci risentiamo lunedì prossimo, così con Effetto Giorno. È tutto per questa puntata, con Gianmarco Ferronato in regia, Valentina Ternullo in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione come sempre, da Alessio Maurizio l'augurio di una buona giornata, di buon weekend. Ci risentiamo tra pochissimo per l'aggiornamento.